figlio di poche parole, ma ha fatto tutto il giro del mondo con la sua testa. Oh, oh, oh, oh. Anche al cuoco non piace parlare, ma riesce a cucinar di tutto con quello che resta. Oh, oh, oh. Ho visto fiori appassire d'estate sotto il sole, ho visto estrarre un vitello, tirarlo per le zampe. Che se ci penso ormai anch'io, in fondo so che ormai anch'io ne ho viste tante. Sono abbastanza grande, una collezione di dischi già abbastanza grande da capire anche un whisky. Sono abbastanza grande che la sera sto a casa, già abbastanza grande, non mi serve una scusa. Sono abbastanza grande da lasciarti il mio posto, non comprare qualcosa a qualsiasi costo. Sono abbastanza grande da avere solo tre amici, già abbastanza grande. Ridevo in faccia a mio padre mentre cercava di avviare la macchina sotto la neve con un bastone. Oh, oh, oh, oh. E ora una figlia che sa già, se glielo chiedo lei mi dà la sua opinione. Oh, oh, oh, oh. E mi ritrovo a guardare gli uccelli volare. Sono milioni gli uccelli stasera sulla stazione di Roma. E un'altra notte aspetterà, un altro giorno che sarà la volta buona, la volta buona. Ah. Sono abbastanza grande, non sogno più ad occhi aperti, già abbastanza grande, conosco Rietta Berti. Sono abbastanza grande da non seguire la moda, già abbastanza grande da evitare una coda. Sono abbastanza grande da lasciarti il mio posto, non comprare qualcosa a qualsiasi costo. Sono abbastanza grande da avere solo tre amici, già abbastanza grande. Sono abbastanza grande, abbastanza grande, abbastanza grande. E la sera sto a casa, già abbastanza grande, non mi serve una scusa. Sono abbastanza grande da lasciarti il mio posto, non comprare qualcosa a qualsiasi costo. Sono abbastanza grande da non volere volare, da sempre troppo grande, da non riuscire a cambiare.